notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nel nuovo filone di indagine sul calcio a scommesse entrano anche Gattuso e Brocchi, indagati per truffa e frode sportiva. 4 arresti, altri 20 giocatori ed ex giocatori nel mirino, 30 le partite sospette. La legge di stabilità arriva domani mattina in aula alla Camera, attesi ancora alcuni emendamenti del relatore. Squinzi non sono ottimista, tra poco intervista con il ministro dello sviluppo economico Zanonato. Al centro dell'attenzione ancora la giornata romana di domani, tra la manifestazione del Comitato 9 dicembre e quelle per la casa. I rappresentanti del movimento dei cosiddetti forconi ancora divisi. Rapporto Lega Ambiente sui pendolari e i treni. In 5 anni i passeggeri aumentati del 17%, le risorse diminuite del 25%. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Se volete commentare, anche se avete domande per il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, che avremo ospite tra poco, potete scrivere al 349-238-6666 oppure con l'hashtag su Twitter Effetto Giorno. Iniziamo però dal calcio scommesse e sentiamo quali sono gli ultimi sviluppi di quest'inchiesta che questa mattina, questo nuovo filone di indagine. Sono 20 gli indagati nell'inchiesta sul calcio scommesse della Procura di Cremona. Tra loro ci sarebbero anche i nomi di Rino Gattuso e Cristian Brocchi. L'accusa ipotizzata nei loro confronti è associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Brocchi e Gattuso erano, secondo gli inquirenti, in contatto con due degli arrestati, Francesco Bazzani e Salvatore Spadaro. I due, secondo quanto ricostruito, erano il collegamento tra il mondo delle scommesse clandestine e i giocatori e le società di calcio. 30 le partite di Serie A in cui, spiega il procuratore di Cremona Roberto Di Martino, ci sono stati contatti tra Bazzani e calciatori o dirigenti che si ricollegano alla squadra che avrebbe giocato il giorno dopo o due giorni dopo. Quella di oggi è l'ultima fase dell'inchiesta partita giugno del 2010, che ha già portato in carcere decine di giocatori ed ex giocatori anche di Serie A, tra cui Beppe Signori, Cristian Doni e Stefano Mauri. Siamo di fronte a un dato di fatto chiaro, dice il procuratore di Cremona. Nonostante gli arresti e le indagini, buona parte di questi personaggi continuano a fare quello che facevano prima. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro. Ci colleghiamo per un commento e per un'analisi con il nostro Dario Ricci. Buongiorno Dario. Buongiorno Simone. Che tanto si occupa di queste cose, se ne è occupato parecchio e se ne occuperà nella prossima puntata della sua trasmissione A Bordo Campo, in onda sabato alle 6.15 e domenica alle 14.30. Dunque Dario, era qualcosa che ci si poteva attendere secondo te, questo nuovo sviluppo d'inchiesta? Direi di sì Simone, siamo appena alla punta dell'iceberg, perché ricordiamo appena il 10 dicembre scorso, pochi giorni fa, c'è stato l'incidente probatorio proprio rispetto all'inchiesta di Cremona su oltre 200 PC, iPad sequestrati nell'ambito dell'inchiesta, giocatori, dirigenti, eccetera, eccetera, e evidentemente questi strumenti stanno cominciando a cantare, salvo poi che chiaramente tutte le accuse devono essere poi verificate in sede di indagine e poi di processo, ma credo che siamo solamente alla punta dell'iceberg e ancora quest'anno, mi azzardo a dire, abbiamo visto gol sospetti, messaggi trasversali tra giocatori e curve, giocatori che rivestono spesso ruoli centrali negli spogliatoi al di là o al malgrado un talento non certo eccelso, e allora chiediamo alle procure a questo punto che ci spieghino questi legami. Sì, e tra l'altro tu dicevi la punta dell'iceberg, ma sono addirittura 30 le partite di Serie A in qualche modo sospette, no? Nelle quali ci sono contatti tra gli arrestati e calciatori o dirigenti. Insomma, questo potrebbe addirittura inficiare interi campionati. Beh, quello sicuramente sì, ma se pensiamo che questo accade nella Serie A, che dovrebbe essere appunto la serie più controllata, possiamo immaginare cosa invece non sia accaduto nelle serie minori, dove i controlli sono inevitabilmente più laschi. È il calcio che è stato chiamato e sollecitato a far pulizia dal suo interno. Gli strumenti ci sono e ci sarebbero, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto legislativo, e qui molto si sta facendo anche in Europa, ma il calcio è sordo e allora pulizia provano a farlo le procure, vedremo con che esiti. Grazie al nostro Dario Ricci per questa analisi e per questo commento. Noi adesso ci occupiamo di carceri, perché oggi è una giornata particolare, quella nella quale dovrebbe essere varato il decreto per svuotarle, almeno parzialmente, nel quale c'è stato un fatto di cronaca molto pesante a Torino. Iniziamo però dalla parte istituzionale e sentiamo che cosa si prevede con questo decreto. Da quelle sul braccialetto elettronico a quelle sulle espulsioni, sono molte le misure inserite nel pacchetto carceri all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Secondo il Ministero della Giustizia permetteranno di sfoltire la popolazione carceraria di altri 3.000 detenuti, che si aggiungono ai 4.000 già usciti grazie ai provvedimenti dei mesi scorsi. Principale novità è l'aumento dello sconto sulla pena concesso per buona condotta, che passa da 45 a 75 giorni per ogni 6 mesi di detenzione. L'uso del braccialetto elettronico, oggi riservato solo a chi è ai domiciliari, viene invece esteso anche ai detenuti che beneficiano di permessi o che lavorano all'esterno dei penitenziari. Altre novità riguardano l'affidamento in prova: potrà ottenerlo chi è stato condannato fino a 4 anni, uno in più rispetto ad oggi. Previste anche misure per semplificare il rimpatrio dei detenuti extracomunitari. Il decreto aumenta poi le possibilità di affido terapeutico alle comunità di recupero per i detenuti tossicodipendenti. Sempre sul fronte delle tossicodipendenze arriva il reato di spaccio lieve con pene inferiori rispetto a quelle attuali. Infine viene anche istituito il garante nazionale dei detenuti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Carcere, in particolare quello di Torino, che come si diceva è stato protagonista oggi di un episodio di cronaca, ce lo racconta Valentina Innocente. Buongiorno Valentina. Buongiorno, sono in tanti da questa mattina di fronte al carcere Lo Russo e Cotugno a Torino per cercare di capire cosa è successo all'interno dello spaccio. Erano da poco passate le 8, infatti, quando l'agente di custodia Giuseppe Capitano ha sparato all'ispettore Giampaolo Melis e poi si è rivolto la pistola contro se stesso. Due morti di cui ancora sono sconosciute le cause. Secondo una prima ricostruzione, prima di fare fuoco, Capitano avrebbe detto all'ispettore: cosa mi state combinando tu e il comandante? E poi si è sparato alla gola e al cranio. Sul perché di questa esplosione di follia nessuno ancora si sbilancia. Sul tavolo ci sono problemi legati alle carenze di organico e turni massacranti. Secondo i sindacati sono questioni che sarebbero alla base di un forte disagio tra gli operatori e il vertice dell'amministrazione del carcere. Un incontro tra le parti era previsto il 20 di dicembre e poi oggi la tragedia. Per ora da Torino è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Valentina Innocente. Torneremo a parlarne più avanti col segretario generale del SAPPE, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Noi passiamo adesso alla legge di stabilità, perché stanno continuando ad arrivare novità in questi minuti. Alessandra Schepisi, quali sono? Sì, buongiorno Simone, continua incessante il lavoro di limatura della legge di stabilità, tra emendamenti che entrano e altri che escono e parecchi nodi ancora da sciogliere. Questa notte, durante la maratona in commissione bilancio della Camera, sono state inserite altre novità: il tetto di 300.000 euro al cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro per i dipendenti pubblici, proroga per gli incentivi alle aziende in crisi ed estensione di quelli per il fotovoltaico. E poco fa l'annuncio che il governo ritira l'emendamento sulla Consob, cioè la proposta di portare da 3 a 5 suoi componenti. Arriva il via libera al rinvio dal 16 al 24 gennaio della mini IMU, mentre salta il tetto massimo dell'1 per 1000 inserito alla Camera per la TASI, che torna così al 2,5 per 1000. Legge di stabilità che slitta ancora, l'approdo in aula è previsto per domattina con votazioni a partire dalle 15. Non è escluso che alla fine il governo ponga la questione di fiducia per sbloccarne l'iter. Ricordiamo infatti che occorre un altro passaggio in Senato. Il via libera definitivo dovrebbe avvenire entro Natale, al massimo entro Capodanno. Intanto questa mattina Letta ha incontrato i leader di CGIL, CISL e UIL. Al centro l'idea del fondo per la riduzione della pressione fiscale su lavoratori e imprese, cui destinare risorse che vanno reperite dalla spending review e dalla lotta all'evasione fiscale. Da quanto si apprende, ci sarebbe stata l'intenzione da parte dell'esecutivo di aumentare le risorse per il taglio del cuneo fiscale. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Intanto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi si dice non ottimista, dice vedremo che cosa succede. succederà dal lato della legge di stabilità, e parla anche del cosiddetto movimento dei forconi, il comitato 9 dicembre, movimento che dice anche ampiamente giustificato perché negli ultimi tempi non ci siamo molto concentrati a fare le cose necessarie per ritrovare la crescita. Il malessere, purtroppo, aggiunge, è molto diffuso. Intanto, proprio dal lato di quello che farà il movimento nei prossimi giorni, l'attenzione è concentrata sulla manifestazione di Roma di domani. I presidi resistono in varie parti d'Italia, mentre a Bari va in scena una manifestazione che non ha marchi o colore politico, come dicono i referenti locali del Movimento 9 dicembre, e raduna lavoratori e studenti che vogliono la lira, la nuova legge elettorale e l'addio a Equitalia. È e resterà una manifestazione pacifica, assicurano gli organizzatori. La stessa assicurazione che dà Danilo Calvani, l'unico leader del movimento a tener fede alla convocazione del sit-in di protesta di domani a Roma in Piazza del Popolo, da cui si sono invece sfilati i forconi siciliani di Mariano Ferro e gli imprenditori veneti di Amedeo Chiavegato per timore di infiltrazioni di estremisti di destra. Si sono fatti mettere nel sacco, ha detto a Mix 24 lo stesso Calvani. Sia la Lise che i forconi sono cascati in una trappola del governo, hanno accettato delle trattative, li hanno illusi. Ferro però assicura che si va avanti ad oltranza e che a Roma si farà qualcosa di diverso. E sempre a Mix 24 indica la priorità della protesta dei forconi. Possiamo chiedere agli italiani se vogliamo restare nell'Europa per avere questi vincoli? Intanto già da oggi nella capitale sono in atto misure di sicurezza straordinarie che riguardano non solo gli edifici governativi ma soprattutto autostrade, caselli, stazioni, aeroporti e snodi viabilistici. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il commento di Daniele Biacchessi. Potrebbe accadere di tutto domani a Roma. Ne sono convinti gli uomini dell'intelligence, i vertici di polizia e carabinieri. Ne sono convinti in prefettura e in questura. Anche Mariano Ferro, il fondatore dei forconi siciliani, non sarà domani alla manifestazione di Roma in Piazza del Popolo. E assicura che gli organizzatori tirano fuori gli estremisti. Casa Pound non ci sarà, ma in molti sono certi che i militanti saranno comunque presenti. Stessa cosa vale per Forza Nuova. Il problema è la concomitanza con l'altra manifestazione, quella sulla casa. Prefettura e questura l'hanno vietata, ma con ogni probabilità il corteo o la cosiddetta accampada ci sarà. La questione resta dunque la gestione della piazza, che non sembra diretta da un pensiero unico, ma lasciata in mano di volta in volta ai vari funzionari responsabili del loro territorio. Del resto è difficile spiegare come al corteo di Torino dei forconi i poliziotti si tolgono il casco in segno di solidarietà con i manifestanti, mentre a Roma l'Università La Sapienza caricano una manifestazione pacifica di studenti all'interno dell'Ateneo. Domani si vedrà dunque se prevarrà la responsabilità degli organizzatori e dei gestori della piazza, perché a questi mercoledì caldi nei prossimi mesi ci dovremo purtroppo abituare. E veniamo alla situazione politica in Germania. Ci colleghiamo con Alessandro Melli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, firmato il contratto di grande coalizione, da oggi Merkel è ufficialmente cancelliere. Sì, finalmente quasi tre mesi dopo le elezioni del 22 di settembre, il Parlamento stamattina ha votato il nuovo governo, la signora Merkel ha già giurato, oggi pomeriggio farà la prima riunione di gabinetto, domani andrà a Parigi per il classico incontro con il presidente francese, che è sempre il primo evento dei nuovi governi in Germania. A fine settimana vertice europeo a Bruxelles, a dimostrazione che anche stavolta, anche in questo terzo mandato consecutivo della signora Merkel, l'Europa sarà al centro delle preoccupazioni. Il governo nuovo ha una maggioranza larghissima, quindi dovrebbe poter far passare tutte le leggi di cui ha bisogno. Le prime dovrebbero essere il salario minimo per tutti, che era una richiesta dei socialdemocratici, e l'abbassamento dell'età pensionabile. Alessandro, un'incoronazione, la terza incoronazione per la Merkel, salutata anche da un dato particolarmente positivo per quanto riguarda il clima di fiducia degli investitori, l'indice ZEV. Quanto ha a che fare? È balzato a 62 punti dai 54,6 di novembre. Quanto ha a che fare con la rielezione, il ritorno di Merkel? Ma questa rilevazione è stata fatta prima, diciamo, che si concludesse definitivamente la trattativa sulla grande coalizione. Comunque era chiaro da tempo che si sarebbe arrivati a questa conclusione dal punto di vista politico. Direi che ha più a che fare con il fatto che in Germania è atteso, l'ha detto la Bundesbank ieri, che l'economia riparta a cavallo fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, e nel 2014 dovrebbe crescere dell'1,7%. Poi l'indice ZEV è un indice della fiducia degli investitori, quest'anno l'indice DAX della borsa di Francoforte è cresciuto del 20%, quindi diciamo che gli investitori hanno buone ragioni per essere abbastanza ottimisti, anche al di là del quadro politico che per la verità era abbastanza definito. Grazie Alessandro Merli del Sole 24 Ore da Francoforte. Noi ci colleghiamo invece adesso con Graziano Spanu, sindaco di Lodè. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. È uno dei sindaci sardi con i quali ci colleghiamo quotidianamente, o quasi quotidianamente, perché abbiamo deciso di non lasciarli soli. Tra l'altro domani ricorre un mese dall'alluvione in Sardegna. Esatto. Spanu, come vanno le cose? Allora, abbiamo, diciamo che è finita l'emergenza idrica, perché a noi ha spazzato via Surimanno, ha spazzato via la condotta idrica che portava l'acqua all'abitato di Lodè, che portava l'acqua dalla Sadigas Canales. Noi siamo stati fino ad avantieri in emergenza e quindi l'acqua veniva portata dai mezzi dei vigili del fuoco, della polizia penitenziaria, degli agenti della forestale. Quindi sono riuscito a trovare, cioè, quindi il mio gruppo è riuscito a trovare queste botti, alcune botti di Abanoa, portavano, approvvigionavano il deposito con delle botti. Inizialmente non era assolutamente sufficiente questa cosa, quindi si è creato un po' di caos. Ma adesso, adesso la questione idrica pare risolta. Quindi il discorso idrico quindi è un pochino quello è risolto. Senta, sindaco, lei brevemente abbiamo un'altra priorità, diciamo, che sì. Abbiamo la provinciale 50 che ci collegava Lodè a Ossieri Sassari, quindi Mamone, sì. Ossieri Sassari, che quotidianamente viene usata questa arteria, sì, per gli studenti che vanno agli ospedali di Ossieri di Sassari, nonché degli studenti. E diciamo che questa arteria purtroppo non è stata assolutamente... Non è stata ancora ripristinata. E questo è un altro elemento. Molto brevemente, sindaco, perché abbiamo pochissimo tempo. Ho letto da qualche parte, lei dice, ci sono dei miei colleghi sindaci che stanno facendo i furbi. I furbi in che senso? Perché qualcuno si vuole uccidare i lampioni e così via, quindi queste sono cose che non dovrebbero succedere e che ognuno realmente dovrebbe guardare in casa propria e vedere effettivamente i danni che sono stati subiti in maniera che non vengano penalizzate le comunità che hanno subito effettivamente i danni. Qualcuno sta battendo cassa senza averne diritto, questo sta dicendo. Diciamo di sì, in questi frangenti forse fisiologico, mi sa che fisiologico, siamo in Italia purtroppo, diciamo che forse qualche collega l'ha capito dal giorno della mia presa di posizione, forse ha fatto qualche passettino indietro. Grazie Graziano Spanu, sindaco di Lodè, in bocca al lupo per il suo lavoro, ci ritroviamo tra un attimo con il ministro dello sviluppo economico Zanonato. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nuovo filone di indagine sul calcio scommesse, entrano anche Gattuso e Brocchi indagati per truffa e frode sportiva. 4 arresti, altri 20 tra giocatori ed ex giocatori nel mirino, 30 partite sospette. Nel giorno del varo del decreto svuota carceri con 3.000 detenuti che potrebbero lasciare gli istituti di pena, a Torino un agente della polizia penitenziaria spara 2 colpi al suo superiore e poi si toglie la vita. Tra poco intervista col segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. La legge di stabilità arriva domani in aula alla Camera, attesi ancora alcuni emendamenti del relatore. Squinzi dice: non sono ottimista. Al centro dell'attenzione ancora la giornata romana di domani, tra la manifestazione del Comitato 9 dicembre e quelle per la casa, i rappresentanti del Movimento dei Forconi sono ancora divisi. Ed eccoci, saluto il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, è un'intervista che avevamo pensato da tempo per tornare innanzitutto soprattutto su, e poi verremo alle cose di più stretta attualità, su un tema che forse anche colpevolmente noi giornalisti abbiamo un po' lasciato da parte, e che è quello che è successo a Prato 2 settimane fa, ossia il rogo nel quale sono morti alcuni cittadini cinesi che lavoravano in una condizione di sostanziale schiavitù. Tra l'altro ci sono dei dati proprio oggi che arrivano dalla CISL, che cita dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo i quali solo in Europa 880.000 persone sono ridotte in schiavitù e un terzo di queste sono destinate alla prostituzione. Quasi 700.000 sono vittime di sfruttamento per il lavoro. Io però vorrei sentire una parola da quello che è il Ministro dello Sviluppo Economico e quindi il Ministro dell'Industria su quello che è successo a Prato. Che responsabilità vede, Ministro? Sempre responsabilità molto, molto articolate, perché la prima responsabilità è di chi sfrutta queste persone in questo modo barbaro. Una seconda responsabilità sta probabilmente nel fatto che non riusciamo ad esercitare i controlli in modo adeguato. Poi c'è anche una responsabilità diffusa, ci siamo abituati a considerare certi comportamenti che non vanno denunciati e isolati, ma comportamenti ritenuti, tra virgolette, accettabili nella normalità. Facciamo anche quando compriamo i prodotti contraffatti, non ci rendiamo conto che dietro c'è una macchina criminale. E quindi direi che per la parte dello Stato dobbiamo essere più in grado di esercitare i controlli e di svolgere fino in fondo la nostra funzione. E chi altro deve svolgere un ruolo, Ministro? E poi è tutta la che deve svolgere un ruolo. Sicuramente i datori di lavoro non possono comportarsi in questa maniera, commettono dei reati e devono essere perseguiti, anche loro devono comportarsi in un altro modo. Quando prodotti sono sul mercato a prezzi assolutamente improponibili, vuol dire che dietro c'è una catena produttiva che è basata su qualcosa di malato. Allora, Ministro, venendo più strettamente all'attualità, ci sono le dichiarazioni arrivate proprio poco fa dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che dice sul lavoro del governo sul fronte della legge di stabilità: non sono ottimista, vediamo che cosa uscirà, ma dice non sono ottimista. Cosa risponde? Beh, l'ottimismo è uno stato dell'animo, non è un ragionamento, l'ottimismo, giusto? Uno può essere ottimista, pessimista, più o meno ottimista. Io sono ottimista, ma è una predisposizione. Perché sono ottimista? Perché vedo che è stato individuato in modo preciso qual è il problema del paese: ridurre il cuneo fiscale, ridurre il costo dell'energia, semplificare e consentire un facile accesso al credito e un accesso agevolato al credito da parte della piccola e media industria. Su questo ci stiamo muovendo. Squinzi, mi sono incontrato ieri, ero con lui ad Assisi all'incontro della Confindustria Umbra, e vede queste misure come insufficienti. Allora io mi ricordo una vecchia massima: è meglio accendere una candela che maledire continuamente il buio. Allora, senta, però ci sono dentro la legge di stabilità delle norme che sicuramente suscitano qualche dubbio e stanno suscitando molte perplessità. Una di queste è la famosa web tax, della quale si sta discutendo molto e sulla quale, se non sbaglio, lo stesso governo aveva un parere non particolarmente favorevole. Guardi, il problema è anche questo, bisogna affrontarlo in modo preciso. Sicuramente la legge lo affronta in modo un po' grossolano. Qual è la questione? Ci sono società che hanno sede all'estero e utilizzano manodopera, lavoratori con contratti che non sono i contratti nazionali e che di fatto vendono in Italia prodotti per miliardi di euro. Allora la domanda è: se noi lasciamo fino in fondo fare in questo modo, ho visto anche un intervento di De Benedetti ieri, mi pare, sul web, se noi lasciamo fare questo, significa che la nostra impresa che produce le stesse cose può benissimo chiudere, non possiamo averla, perché soltanto chi gode di queste agevolazioni, cioè non paga tasse, può svolgere quel tipo di attività. verità. Allora, si tratta di magari organizzare in modo diverso la questione, ma di capire di cosa stiamo parlando. No, di cosa stiamo parlando, però Ministro, no, mi scusi, di cosa stiamo parlando è molto chiaro. Il punto è se una normativa nazionale, che probabilmente solamente nazionale, può risolvere il problema, e peraltro probabilmente in contrasto con normative europee. Ma non lo so se in contrasto con normative europee, perché io penso che le normative europee prevedano che i beni nel mercato siano trattati tutti allo stesso modo. Se uno viene in Italia e usa dei contratti di lavoro che sono stipulati in un altro paese, anche fuori dall'Europa, non mi pare che stia rispondendo alla normativa comunitaria. E comunque, scordiamoci che gli e-book siano fatti in Italia, perché gli e-book fatti in Italia partono da una condizione di assoluto svantaggio e non potranno mai fondersi, e così molti altri servizi. Cioè, si tratta di mettersi d'accordo, lo vogliamo o non lo vogliamo, un settore in questo campo che sia messo alla pari con i settori che arrivano da altri paesi e che oggi invadono il mercato. E quindi quella formulazione va bene così, e quindi va bene così quella formulazione della web tax, Ministro? Non lo so, perché anch'io ne ho parlato in Consiglio dei Ministri, si è discusso un po' sul fatto che non vogliamo in nessun modo limitare l'accesso a internet. Cioè, questo deve essere chiaro, perché viene raccontato anche un po' in questo modo, come se si fosse una tassa per entrare in internet. Ma dobbiamo avere aziende che vendono i prodotti attraverso internet, che sono nella stessa identica situazione delle nostre aziende che fanno lo stesso lavoro. O lei pensa diversamente? Senta, io non penso, io sono il giornalista e faccio domande, quindi pongo dubbi. No, ci sono molte perplessità su tutto questo, che arrivano da più parti politiche. Ma se non chiariamo la cosa di cui stiamo parlando, sono perplessità, ma sono appese a nulla. Io domando, può un'azienda con condizioni completamente diverse nel campo del lavoro e della fiscalità vendere lo stesso prodotto che vendiamo noi in Italia con condizioni fiscali e col costo del lavoro? Ammetterà però che è una riflessione che va fatta a livello europeo, non è una cosa che puoi fare solamente in Italia, perché il rischio è che poi chi vende questi servizi, scusi, scarica il costo aggiuntivo di tasse esattamente sulle imprese italiane che comprano questi servizi, o no? No. Allora questo varrebbe per qualsiasi prodotto, diventiamo un paese che importa e basta. Varrebbe per qualsiasi, importiamo e basta, non produciamo più niente in Italia. E no, mi dispiace, proprio il ragionamento non fila. Vedo che un'opinione ce l'ha, abbiamo opinioni diverse. Abbiamo opinioni diverse. Senta, invece, su Destinazione Italia, è soddisfatto dei provvedimenti varati? Vabbè, immagino di sì, insomma, no? Allora, sono alcuni provvedimenti che attuano una parte dei punti di Destinazione Italia. Ricordiamo cos'è Destinazione Italia: un insieme di iniziative che puntano ad avere investimenti in Italia da parte di investitori italiani e da parte di investitori stranieri, e puntano principalmente su due cose: certezza del processo autorizzativo e certezza del regime fiscale che si incontra. Ritorniamo nel punto di prima, per certi versi. Allora, l'impresa che investe in Italia deve sapere che in Italia ha la possibilità di avere una redditività del proprio investimento che può calcolare, sulla base della quale decide di entrare con propri capitali. Le misure vanno tutte in questa direzione: favoriscono poi la ricerca, favoriscono con detrazioni fiscali, favoriscono l'arrivo di persone altamente qualificate da altri paesi, valorizzano le persone altamente qualificate anche formatesi in Italia. Vanno tutte nella direzione di mettere in moto un meccanismo in cui si invoglia il capitale italiano straniero ad investire. Ultima domanda che le voglio fare sulla protesta che sta animando l'Italia in questo periodo. Vorrei una sua valutazione, perché qua anche di nuovo il presidente, cito il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ma semplicemente perché ha dichiarato poco fa, dice, una protesta anche ampiamente giustificata, perché negli ultimi tempi non ci siamo molto concentrati a fare le cose necessarie per ritrovare la crescita, il malessere è molto diffuso. Che rischi intravede da quello che sta succedendo nelle piazze e soprattutto nelle strade e autostrade italiane? Ma guardi, penso anche che il fatto che abbiamo avuto una perdita del 9% di PIL, che nell'attività produttiva arriva al meno 25%, ha creato ampi momenti di difficoltà economica nel reddito delle famiglie, nella possibilità di affermarsi in imprese, soprattutto microimprese, artigiane, imprese di autotrasporto, e tutto questo genera un forte scontento. C'è una sfasatura tra le cose che abbiamo preso in mano noi e i risultati che riusciremo ad ottenere, e la situazione che si è venuta a creare e che è anche l'indotto di una situazione che ha questi dati che le ho dati, perché con meno 9% di PIL non aumenta l'occupazione, non aumentano le certo. Non aumenta il benessere, aprono attività e avanti di questo passo. E allora è comprensibile che ci sia una protesta, non ha una proposta, perché non si capisce qual è la proposta, e questo è un elemento che andrebbe sottolineato, e vabbè, il malessere esiste, ma come lo traduciamo in fatti positivi, cioè in cambiamenti reali, prima domanda, secondo, attrae, come tutti i mezzi che hanno una dimensione vasta, anche comportamenti che non sono accettabili e per i quali bisogna avere una certa fermezza, voglio dire razzismo, antisemitismo, violenza, contro queste cose essere netti. Però in sé io sono anche per provare a ragionare e a dialogare con alcuni di questi, perché indubbiamente partono da un malessere che esiste, non se lo sono mica inventati loro. Grazie ministro Zanonato, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a lei, arrivederci. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Calcio scommesse, nel nuovo filone d'indagine entrano anche Gattuso e Brocchi, indagati per truffa e frode sportiva. 4 arresti e sono 30 le partite sospette. La legge di stabilità arriva domani in aula alla Camera. Attesi ancora alcuni emendamenti del relatore. Letta incontra i leader sindacali. Il presidente di Confindustria Squinzi dice: non sono ottimista. Domani a Roma la manifestazione del Comitato 9 dicembre. I rappresentanti del movimento dei cosiddetti forconi ancora divisi. E veniamo adesso a parlare di questa giornata che ci attende, e segnata anche da un fatto di cronaca. Che cosa ci attende in questa giornata? Ci attende il varo del decreto cosiddetto svuota carceri, con 3.000 detenuti che potrebbero lasciare gli istituti di pena. A Torino, questa mattina, un fatto di cronaca, come si diceva. Un agente della polizia penitenziaria ha sparato 2 colpi al suo superiore e poi si è tolto la vita. Un saluto a Donato Capece, che è segretario generale del SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Qual è il suo giudizio e la sua lettura del fatto di questa mattina? Beh, chiaramente siamo amareggiati e costernati per questo grave lutto. Purtroppo il carcere è un lavoro durissimo, un lavoro che scarica le proprie tensioni sul personale di polizia penitenziaria, che è solo abbandonato a se stesso. E l'assistente capo, autore di questo omicidio, che poi si è suicidato, chiaramente soffriva probabilmente di un sospetto che il superiore stesse procedendo disciplinarmente nei suoi confronti. Infatti la frase detta prima di mettere mano alla pistola è stato: cosa mi state combinando tu e il comandante? Dopodiché ha preso la pistola e ha sparato verso l'ispettore. L'atto successivo, con la pistola d'ordinanza, si è sparato un colpo alla gola e quindi il proiettile ha trapassato il cranio ed è deceduto anche lui al CTO di Torino. Denota sicuramente una situazione grave che è negli istituti di pena, dove è vero che ci sono i detenuti in sovraffollamento e che vivono anche loro in stato d'ansia e stressati, ma soprattutto vi sono i poliziotti penitenziari che sono abbandonati a loro stessi e che in pratica non si sentono seguiti né dall'amministrazione né dal capo dipartimento, che si preoccupa probabilmente solo della situazione penitenziaria e non si preoccupa assolutamente di garantire certezze dei diritti soggettivi al personale. Mettere mano al decreto delegato 449 della disciplina, perché questo decreto è inadeguato. Quindi il capo dipartimento è inadeguato, dice lei in sostanza. Ma io penso che non debba solo pensare al carcere e ai detenuti. Deve pensare che lui è capo anche della polizia penitenziaria e quindi un'attenzione particolare verso questi uomini che tutti i giorni soffrono in carcere e che grazie al loro, col loro sacrificio, al loro lavoro, riescono a salvare la vita a decine e centinaia di detenuti al giorno. E quindi sta dicendo, in sostanza, capisce, mi scusi, che almeno fino adesso l'azione dei capi del DAP è stata inadeguata e l'attuale capo è inadeguato. Sicuramente sì, chiediamo che vi sia un capo, un comandante del corpo di polizia penitenziaria che segue i suoi uomini, che capisca che cosa vuol dire essere capo di un corpo di polizia, ciò che oggi non abbiamo. Un suo giudizio, Capece, su, tanto ormai le cose si sanno più o meno, no? sul decreto cosiddetto svuota carceri, sui provvedimenti svuota carceri, come li giudica? Ma io ritengo che siano provvedimenti tampone. A mio avviso il carcere va completamente rivisto attraverso una modifica del sistema sanzionatorio, ma attraverso delle riforme strutturali serie. Non solo i 3.000 detenuti che cambiano la vivibilità del carcere, perché da 66.000 andremo a 63.000, quindi non cambia assolutamente niente. Il problema del carcere è: uno, la gravissima carenza organica dei poliziotti penitenziari, perché ne mancano 8.000. Due, a mio avviso, l'espulsione dei detenuti stranieri che hanno una pena definitiva da scontare attraverso gli accordi bilaterali. Terzo provvedimento, i tossicodipendenti devono stare fuori dal carcere e essere affidata a strutture protette esterne. E in parte mi sembra che i provvedimenti di oggi vadano ad intervenire proprio su questo, insomma, e quindi da questo punto di vista probabilmente c'è anche un elemento interessante e più strutturale. Amnistia sì o no, brevemente? Ma a mio avviso l'amnistia non risolve il problema. A mio avviso bisogna fare delle riforme serie e ridisegnare il carcere in maniera diversa. Grazie. Non può essere una discarica sociale, basta. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il calcio scommesse in apertura nel nuovo filone d'indagine. Entrano anche Gattuso e Brocchi, sono indagati per truffa e frode sportiva, 4 arresti, 30 partite sospette, nel mirino ci sarebbero altri 20 tra calciatori ed ex calciatori. La legge di stabilità arriva domani mattina in aula alla Camera, Letta intanto incontra i sindacati. Nel frattempo salta il tetto massimo dell'1 per 1000 inserito per la TASI, che torna così al 2,5 per 1000. Nel giorno del varo del decreto svuota carceri, con 3.000 detenuti che potrebbero lasciare gli istituti di pena, a Torino un agente della polizia penitenziaria, ve l'abbiamo raccontato, ha sparato 2 colpi al suo superiore e poi si è tolto la vita. Temeva, come ci ha raccontato il segretario del SAP, un'azione disciplinare. È il momento di America 24 e di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero, abbiamo parlato ieri di Germania, Europa, Stati Uniti, c'è un triangolo, insomma, perché l'America preme perché la Germania faccia molto di più per la crescita, accusa addirittura la Germania di tenere gli altri paesi indietro. Abbiamo sentito cosa ci ha detto la Goulart, che è un eurodeputato, cioè dice, beh, insomma, sì, è vero, ci sono delle cose da fare, ma facciamole col dialogo, parliamo, convinciamoli, facciamo anche noi, Francia e Italia, delle riforme, delle cose importanti, di modo che si proceda di pari passo. Dunque vorrei riprendere questa chiacchierata con un altro dei protagonisti del dibattito economico europeo, ed è Lorenzo Binismaghi, ex banchiere centrale con la Banca Centrale Europea, responsabile tra l'altro delle attività internazionali, oggi presidente della SNAM e comunque molto attivo nel settore economico. Buongiorno Binismaghi. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci siamo sentiti non tanto tempo fa. Germania colpevole o innocente, forse era un giudizio, una richiesta un po' tranchant, Fred Bernstein diceva che era colpevole, lei ha imboccato la linea della difesa un po' come la Goulard. Allora io tornerei all'attacco, perché nel frattempo sono successe un po' di cose, insomma il tasso di crescita americano è stato rivisto al 3,6%, approfitto per chiederle un commento a caldo su un paio di notizie che abbiamo avuto la settimana scorsa, cioè la Volcker Rule che è stata adottata. Ecco, cosa pensa della Volcker Rule, della multa JP Morgan Chase da banchiere centrale? Ma sicuramente è un segnale che le cose stanno cambiando anche dal punto di vista della regolamentazione finanziaria, che non si possono più ripetere gli errori del passato, i contribuenti non devono più pagare per gli errori delle banche. E dunque c'è un'azione preventiva, cioè non si aspettano gli errori, ma farli prevenirli con multe gravi, ma anche con regole più rigorose per separare l'attività tradizionale delle banche e il trading e la banca stessa. Quindi il giudizio è positivo su questi passi, sono dei passi in avanti. Ecco, un altro giudizio, sempre a caldo, accordo in Parlamento tra democratici e repubblicani con la benedizione di Barack Obama sul bilancio, quindi non più shutdown, tiriamo avanti. Qualcuno dice ma forse un accordo un po' rappezzato, meglio un accordo che non un accordo, cosa ne dice? No, assolutamente, mi sembra un passo avanti per ridurre anche l'incertezza sui mercati e anche per gli operatori finanziari su un andamento fiscale del prossimo anno almeno, e poi per creare le basi per di più lungo periodo, perché anche negli Stati Uniti c'è un problema pensionistico, c'è un problema di sanità, e dunque tutto questo va affrontato con un po' più di serenità, cosa che non era possibile prima. Ecco, problemi pensionistici, sanità, però torniamo a quello che dicevo in apertura, l'America cresce, non solo cresce a un ritmo del 3-6%, poi magari sarà più lento all'inizio dell'anno prossimo, qualcuno lo prevede, ma ha anche ridotto drasticamente il disavanzo pubblico sul PIL, ha anche creato 2 milioni di occupati, insomma qualcuno dice c'è un circolo virtuoso che in qualche modo l'America è riuscita a mettere in atto grazie a politiche fortemente espansive, molto criticate in Europa, soprattutto dalla Germania. Ecco, torniamo al punto, ma non vale la pena cominciare a crescere, creare occupati, andare avanti e poi mettere a posto alcuni conti e alcune cose? Ma innanzitutto gli Stati Uniti crescono perché c'è un mercato del lavoro molto flessibile, hanno tutto l'aspetto energetico che è una vera e propria rivoluzione, sicuramente hanno fatto politiche più espansive, ma vediamo il bilancio pubblico si sta aggiustando, c'è una politica monetaria molto espansiva e quella forse può creare qualche preoccupazione, perché tutta questa ripresa è basata su tassi di interesse molto bassi e dunque tutti si stanno preoccupando cosa succederà quando questi tassi di interesse riprenderanno a salire, cioè quando la Federal Reserve smetterà di comprare titoli di Stato al ritmo a cui lo sta facendo. Certo, può essere che siano le carte. Un'ultima domanda, l'ossessione della Germania con l'inflazione, è un'ossessione o no? Perché non c'è inflazione, perché continuano a dirci che bisogna preoccuparsi di questo? Ma io penso che in questo periodo più che di ossessione sull'inflazione si sta creando una preoccupazione sulla mancanza di aggiustamento e di riforme nei paesi periferici che ancora devono fare aggiustamenti. Ho capito, però nel frattempo noi cominciamo ad avere i forconi per strada, cioè fino a che punto si può tirare la corda? Non è meglio crescere e poi, come abbiamo visto con l'America, magari le cose si rimettano a posto? Sì, ma la crescita bisogna capire da dove passa, la crescita, come si fa a crescere in Italia? Per crescere bisogna rendere il paese più competitivo, bisogna mettere al centro della strategia il lavoro, gli investimenti. Cos'è che ostacola gli investimenti oggi? Gli investimenti vengono ostacolati da tutti i problemi burocratici, dal mercato del lavoro che non funziona, dalla giustizia che è incerta. Tutte queste riforme sono poi una competenza dei governi nazionali. Se non si mette mano a queste riforme, anche se la Germania traina un po' di più, come sta facendo attualmente, ma poi l'Italia non, non, non riesce ad agganciarsi alla ripresa, se non riesce a essere più competitiva. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo continuato a parlare di Germania, di economia, di problemi, di crescita, di America che è un po' scocciata, direi di stare nel contesto transatlantico di nuovo con Liza Minnelli, di nuovo tratto da Cabaret, ma un'altra canzone con quello che poi da sempre nella storia il problema centrale, e cioè i quattrini, i soldi. La canzone Money, Money, Money, Liza Minnelli. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't find a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Due ultimi aggiornamenti prima di chiudere. Innanzitutto uno che arriva dal calcio scommesse ed è l'ordinanza del GIP di Cremona. Guido Salvini dice Salvini che c'è il rischio di manipolazione di tornei in corso, questo a proposito dell'inchiesta cremonese e del nuovo filone. Torneremo a parlarne tra poco in GR24. Effetto Giorno si chiude qua, un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in redazione e in assistenza, come sempre tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno torna domani alle 13, non ci sarò io, ci sarà Maria Piera Ceci. Noi ci sentiamo tra un attimo col giornale radio.